Cari cristiani, io insisto nel dire che dovete prendere in mano voi la parola di Dio, meditarla voi. E poi dopo continuiamo a spiegarvela noi preti. È come se in casa la mamma ti dice impara a cucinare tu e poi ti cucina sempre lei. È chiaro che tu non imparerai mai. D'altra parte la Chiesa ha dato al sacerdote il compito, un gioioso compito, di illustrarvi la parola di Dio. Però io non smetto di ricordarvelo, occorrerebbe in questo tempo di Quaresima. Per esempio, dopo una vita che ascoltate il Vangelo, credo che voi sapreste spiegare ai vostri figli, ai vostri nipoti, cosa vuol dire di non gettare le cose sante ai cani e le vostre perle davanti ai porci perché non le calpestino. Dovremmo, dopo una vita che ascoltiamo queste parole, vi sembra? Magari dopo, uscendo di chiesa, io ve lo chiederò, a meno che scapperete via di volata. Io invece mi soffermo su questa parola del Vangelo in cui dice chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. Io penso che di fronte a questa parola così chiara, che il Signore ascolta le nostre richieste, in più di una persona sorga qualche perplessità. Ma io tante volte chiedo e non ottengo. E questo sarebbe un grande tema, cari cristiani, su cui riflettere. Ma io faccio un passo indietro e vi dico, siete così sicuri che quando chiedete Dio non vi concede? Io sono certo del contrario. Io sono certo che il Signore ci dà anche se non gli chiediamo, per esempio la salute, per esempio la vita, per esempio la fede, per esempio la buona volontà di essere qui stasera a messa. Quante cose il Signore... Ah beh, se contiamo anche queste cose, perché non sono doni del Signore? O siamo ciechi anche noi come quel giovane che viveva in una cascina e che frequentemente si lamentava col Signore, con se stesso, con tutti, che lui era un povero derelitto, non abito in città, mi considerano tutti uno zoticone, un contadinaccio, non ho la macchina per andare in paese, non ho neanche la moto, non ho neanche la bicicletta, se mi muovo devo muovermi a piedi, chi più povero e più disgraziato di me? Le ragazze non mi guardano. Mentre ragionava così, entra in paese e un vecchio, seduto su una panchina, lo sente che si lamenta e gli dice «Ehi, quel giovane! Oh nonno, buongiorno! Vi serve qualcosa?» «No, no! Senza volerlo ho ascoltato i tuoi lamenti. Ti lamentavi che proprio non hai niente». «È la verità!» E continua a ripetergli la stessa storia. Allora quest'uomo gli dice, vorresti avere 20.000 dollari senza fatica? Ma onestamente si intende, magari, cosa devo fare per averli? Guarda, è semplice, dammi la tua mano. Il giovane stende la mano, no, non intendevo così, tagliati la tua mano destra e regalamela. Oh nonno, ma siete a posto di testa, senza offesa, mi dareste 20.000 dollari, ma perché vi devo dare la mia mano destra? Non so, sentivo che eri povero, non ti bastano, te ne do 50.000. Nonno, per piacere, non si scherza su queste cose. Guarda, se tu mi dai il tuo occhio destro, ti do 100.000 dollari. Ma basta, ringraziate il cielo che io sono educato con gli anziani, altrimenti vi avrei strapazzato e vi avrei mandato via. Ma guarda che ragionamenti. E riprende la sua strada per entrare in paese. Ha fatto 10 passi che quell'uomo lo chiama. Ehi, quel giovane, ma cosa c'è ancora? Insomma, ma volete... Non dire più a nessuno che sei povero.